Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda la vicenda, sostanzialmente Boeing si infittisce perché, qualcuno di voi ricorderà, ne parleremo in apertura, i problemi già denunciati da varie compagnie aeree sul nuovo aereo della Boeing, il 787 Dreamliner, il gioiellino, quello che ha consuma pochissima benzina grazie a una fusoliera in resina, in carbonio, scusatemi, non in resina, ci mancherebbe, in carbonio, prodotta tra l'altro negli stabilimenti italiani di Grottaglie in Puglia. Beh, dicevo, i problemi in questo caso non riguardano la struttura fisica, ma riguardano tutta la componentistica di carattere elettronico. Ma la notizia vera e propria che sta facendo perdere parecchio il titolo a Wall Street è che la Japan Airways ha bloccato tutti gli aerei a terra dopo un ulteriore problema. E la cosa interessante, si fa per dire, ma anche la All Nippon Airways, quindi le due principali compagnie giapponesi. E la cosa interessante, dicevo, è che da un lato la Boeing ha questi grossi problemi con il nuovo gioiello, dall'altro però anche l'Airbus, sempre per problemi di carattere legati al circuito elettronico, aveva avuto grossi problemi nel lanciare l'Airbus A380, ricorderete, quello a due piani. E allora vorremmo capire cosa sta succedendo, perché insomma è vero che il settore aereo è in difficoltà, ma vedere in due settimane 7 incidenti nelle due compagnie aeree, Japan Airlines e All Nippon Airways, in cui sono coinvolti i loro Dreamliner, e poi altre compagnie aeree che stanno valutando cosa fare, beh, per chi poi deve prendere l'aereo non è il massimo. Tra l'altro le due compagnie aeree giapponesi sono quelle che ne hanno ordinate di più, 45 ordini per All Nippon Airways, per Japan Airways, e 17 per, di cui per un totale di 66 per la Japan Airlines. Ancora la Boeing dice che controllerà, ma mantiene le commesse con British Airways e con Korean Air. E in tutto questo c'è anche la vicenda meridiana, scambi fiume, congelato il titolo al rialzo, ne parleremo nel corso dei mercati finanziari. Tutto questo dopo la mossa dell'Aga Khan, che ha sostituito l'amministratore delegato Giuseppe Gentile con Roberto Scaramella e ha concentrato il capitale nelle sue mani. Il titolo appunto cresceva del 21%, in questo momento, ripeto, sospeso dalle 11.46 con una variazione del 27.20%. Passiamo quindi alla borsa, che oggi è negativa. Milano è la peggiore, meno 0.80%, Parigi bene più 0.30%, Francoforte più 0.20%, Londra meno 0.17% e l'America meno 0.26%. Perché Milano perde? Perché sono negative le banche. Oltre a Mediaset, che perde il 4,15%, c'è infatti Mediobanca che perde il 3,31%, il Banco Popolare il 3,1%, Ubibank il 2,30%, Intesa il 2,14%, Monte dei Paschi il 2,13%, come Unicredit e sostanzialmente la Popolare di Milano. Poi negativa anche Enel di 1,5%. Bene Tod's più 2,77%, Diasorin più 2%, come Buzzi Unicem, Salvatore Ferragamo più 1,80%, Tenaris più 1,50%, Terna più 1,1%, Atlantia più 0,90%. Parleremo quindi di della difficoltà che sta attraversando il colosso mondiale dell'aeronautica Boeing, della vicenda che riguarda Meridiana, chiaramente, e poi però anche del nostro commercio con l'estero. Oggi dati molto buoni, il bilancio dei primi 9 mesi porta al rialzo delle nostre esportazioni al 4%, il dato finale secondo le stime del ministro uscente Corrado Passera dovrebbe essere di un più 4,3%, 10 miliardi di avanzo commerciale, cioè la differenza tra le esportazioni e le importazioni è a favore del nostro export per 10 miliardi, e si è molto ridotto infatti anche l'import. Faccio notare che il 4% di rialzo nelle esportazioni è un dato identico a quello diffuso ieri dalla Germania, a dimostrazione che l'Italia sui mercati esteri, le imprese italiane ci sono e fanno gli stessi numeri delle imprese tedesche, con molti, molti, molti meno vantaggi e aiuti, e anche con un sistema paese più debole. alle spalle. Di questo parleremo col presidente dell'ICE, perché oggi i dati sono stati presentati per, all'interno del piano industriale 2013-2015 del nuovo Istituto per il Commercio con l'Estero. Nella sua nuova versione dovrebbe essere più una cabina di regia, ma appunto ne riparleremo con Riccardo Monti, che non c'entra niente, non ha nessun legame di parentela con Mario Monti, ma è il neo presidente dell'ICE. 349-238-6666 per gli sms e Facebook per comunicare con il programma. Rapidamente le altre notizie in breve. Alle 19 l'incontro tra il presidente del Consiglio uscente Mario Monti e il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera. Il tema è redditometro. Noi ne parleremo alle 18:15 perché, come ricorda giustamente oggi il Sole 24 Ore in prima pagina con un commento di Guido Gentili, questo redditometro è orfano, è un orfanello. Berlusconi dice che è uno strumento sbagliato, Tremonti dice che è uno strumento sbagliato, Monti dice che è uno strumento sbagliato, Bersani non ne fa un grosso problema, ma insomma cercheremo di far chiarezza, anche perché questo redditometro non è che l'abbiamo voluto noi, è frutto di una scelta, decisione del governo Berlusconi e poi è stato reso operativo dal governo Monti, però la dice lunga anche sulla capacità di attribuirsi le responsabilità. Insomma, ora che il redditometro possa avere un effetto prociclico, quindi aumentare la recessione con un eventuale calo dei consumi, è un timore che molti hanno, fermo restando che tutti gli strumenti che servono a scovare l'evasione fiscale sono benvenuti, perlomeno per quanto ci riguarda. Però la cosa un po' singolare è che in questo caso, come nel caso dell'IMU, sono tutte misure senza paternità, orfanelle. Avremo anche una pagina abbastanza nutrita oggi, purtroppo, sugli sprechi delle amministrazioni pubbliche e della politica, ma andiamo con ordine e ripartiamo dalle notizie in breve. Dopo l'annuncio di ieri del colosso americano, del colosso, scusate, mondiale nella produzione di platino, l'Anglo American Platinum, di chiudere 4 miniere in Sudafrica, il prezzo del platino è schizzato e ha superato per la prima volta ad aprile il prezzo dell'oro, ossia $1,689 l'oncia contro i $1,683 l'oncia dell'oro. Sempre in tema di oro, viene confermato quanto già anticipato anche da noi ieri, ossia che la banca centrale tedesca, la Bundesbank, riporterà in patria circa 700 tonnellate d'oro finora custodite all'estero. Pensate un po' che camion di oro che arriveranno in Germania. Arriveranno dalla Francia soprattutto, dove ci sono circa 374 tonnellate collocate e verranno tutte ritirate. E poi altre 300 le ritirerà dalla Federal Reserve, dalla Banca Centrale Americana. E per quello che riguarda sempre la Germania, ieri abbiamo dato un lungo approfondimento al calo del PIL tedesco nel terzo trimestre. Nel quarto trimestre, scusate, meno 0,5%, con una crescita molto modesta in Germania, più 0,8% quest'anno, e ancora più modesta secondo le stime l'anno prossimo, più 0,4%. E oggi si svegliano anche i tedeschi, dicono, insomma, io trovo paradossale la dichiarazione del portavoce del governo tedesco Steffen Seibert a Berlino. Ha detto: la nostra economia è rallentata e abbiamo tagliato tutte le stime per il 2013. Perché? Perché la crisi di alcuni paesi dell'euro pesa sulla congiuntura tedesca. Bisogna andare avanti con le riforme di risanamento. Allora, cioè adesso manca solo che la colpa del fatto che la Germania non esporti Mercedes, BMW o apparecchiature Siemens o quant'altro sia anche questa dei greci, dei portoghesi, degli spagnoli, degli italiani. Voglio dire, le misure e la gestione estremamente rigida fino a luglio è da imputarsi in primo luogo alla Germania, e come purtroppo avevamo facilmente previsto, la frenata di buona parte delle economie dell'area euro avrebbe prodotto effetti anche in Germania. Non capisco però cosa vuol dire andare avanti con le riforme di risanamento, cioè riconosci che la crisi di alcuni paesi dell'euro pesa sulla vostra congiuntura, però continui a dire che bisogna andare avanti con quelle riforme che hanno in qualche modo aggravato la crisi di questi paesi. Torniamo al tema classico, forse qualche misura per la crescita, per dare un po' di risorse. Alcuni dicono lei sembra un disco rotto, non so, però io mi impunto su questa cosa della Germania e anche su altri temi, eh. Oggi torneremo a parlare anche dei banchieri di Wall Street, altro tema classico di questo programma, però insomma non capisco. Ancora per quello che riguarda il nostro export, abbiamo detto, infatti a conferma di quanto stiamo ricordando, il nostro export va male in Germania, meno 3,8%, perché la Germania ha frenato, in Spagna, in Francia tiene, va male in Spagna, bene in Gran Bretagna, molto bene in Russia, molto bene in Turchia, molto bene nei paesi dell'OPEC, paesi produttori di petrolio, molto bene negli Stati Uniti e anche in Cina, benissimo in Giappone, male in India, ma insomma lì forse c'è qualche motivo congiunturale. Ancora due dati, il mercato europeo dell'auto è insomma in drammatica difficoltà, già lo ricordavamo ieri, praticamente nel 2012 ha fatto meno 8,2% quanto a immatricolazioni. È il dato peggiore dal 1993. Siamo ai minimi come variazione negativa, è il peggiore dal 93. Quanto a immatricolazioni in assoluto, 12.053.904 vetture, siamo ai minimi dal 1995. Sono calate le immatricolazioni in Francia del 3%, ma soprattutto in Italia meno 14%, in Spagna meno 20%. In Spagna meno 13,5%. Scusate, c'è un refuso, mi correggo subito perché ci teniamo molto le cifre. In Francia sono calate del 14%, in Italia del 20%, in Spagna del 13,5% e anche in Germania sono calate del 3%. Di nuovo a segnalare che la frenata c'è anche in Germania. L'unico paese in cui aumentano, sarà un caso strano, sarà una coincidenza, è un paese fuori dall'euro e quindi fuori dal rigor mortis tedesco, è la Gran Bretagna, più 5,3%. Lo dico a chi sta già scrivendo, abbiamo sempre detto che vanno tagliati i costi della politica, la spesa pubblica improduttiva, che l'Italia non può continuare, che ha fatto bene il governo Monti in quel caso a annunciare un piano di riduzione del deficit e del debito. Manca tutta la parte attiva, cioè se non si emettono o attraverso le obbligazioni eurobond, obbligazioni europee, se non si buttano un po' di risorse produttive, efficaci nell'area euro, non c'è alcun elemento per dire che il 2013 non sarà un anno di recessione. Lo sarà in Italia e anche la Germania dovrà accontentarsi della stagnazione. Quindi in questo senso si può avere rigore, ma si possono avere anche delle iniziative per lo sviluppo. La Federal Reserve ieri ha detto alla Banca Centrale Americana che continuerà con le politiche accomodanti, non vuole smettere di aiutare l'economia americana stampando moneta. Il governo giapponese ha messo dentro 170 miliardi di euro nei prossimi anni per rilanciare l'economia. O sono pazzi in Giappone e in America e gli unici intelligenti sono in Germania, oppure forse abbiamo sbagliato qualcosa nel solo rigore. Lo dice anche il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Blanchard, che ha ammesso con la Grecia forse abbiamo sbagliato, perché se uno è ammalato gli dai una tale terapia che manco lo fai riprendere, la malattia peggiora. Non so più come spiegarlo il concetto a chi sta scrivendo e pensa che io ce l'abbia con la Germania. Sì, ce l'ho anche con la Germania, ma che attribuisca i mali dell'Italia alla Germania. I mali dell'Italia sono dell'Italia, dopodiché la Germania, a mio avviso, imponendo questa linea dura finché gli è convenuto, ha peggiorato la situazione di questi paesi. E nessuno mi convincerà del contrario, visto che poi le notizie che arrivano sono quelle che banalmente, modestamente ci aspettavamo, no? Ultima notizia, ed non è una buona notizia per Blockbuster, il gruppo che fino a pochi anni fa era considerato il leader mondiale nel mercato del noleggio di DVD. Beh, in Gran Bretagna va verso l'amministrazione controllata, 4.190 persone su 528 negozi, e che la discografia sia in difficoltà, discografia, mondo dei DVD e quant'altro, lo conferma anche la notizia che è arrivata ieri che HMV, il colosso della musica, ha presentato analoga richiesta di amministrazione controllata perché rischia il fallimento. Allora, tornano due rubriche, due appuntamenti, sia cos'è questa crisi che i costi della politica su base regionale. 3492386666 per gli sms e Facebook per scrivere. Partiamo con la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, le banche d'affari americane. Goldman Sachs, quinta banca d'affari americana, ha annunciato un profitto netto di 2 miliardi e 900 milioni di dollari, il doppio dell'anno prima. E gli utili nel quarto trimestre sono quasi triplicati. E, ecco appunto, 290 milioni di dollari contro un miliardo del trimestre di un anno, del quarto trimestre 2011. Benissimo, bene per gli azionisti. Il dividendo a questo punto va a $5.60 per azione contro attesi di $3.66. E a quel punto sono tornati a crescere anche i compensi, bonus e benefit per i manager. Le spese sono salite del 6% a 12 miliardi e 900 milioni, ossia il 38% dei ricavi. La paga media in Goldman Sachs è di $400.000, non male, contro i $367.000 dell'anno scorso, e un aumento delle spese appunto per compensi, salari e benefit che tocca i 13 miliardi, più 6%. Questo nonostante Goldman Sachs abbia licenziato il 3% dei dipendenti. Pensate che le spese totali della banca sono aumentate del 3%, ma insomma qui tornano a venire distribuiti bonus a pioggia e compensi. Io avevo capito che le banche d'affari avessero imparato la lezione, ma non è così. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Eh beh, però per ora l'avidità del mitico Gordon Gekko, il primo, ha invece innescato la più grande crisi finanziaria, economica, occupazionale, adesso dei consumi dal 29. No, lo dico perché è giusto poi criticare la Germania, l'Europa, l'Italia, quello che... ricordiamoci da dove nasce, da dove è partita questa crisi, per l'assenza di controlli e sui rischi che queste banche si sono assunte. Nel frattempo però altra banca d'affari, ma caso diverso, JP Morgan Chase, ha aumentato i profitti del 53%, vanno a gonfie vele le banche d'affari americane, ma guarda che brave, a 5 miliardi e 700 milioni, più 53%, l'utile netto è salito a 21,3 miliardi, però la banca ha deciso di ridurre lo stipendio al numero uno, Jamie Dimon, dopo avergli imputato la responsabilità finale della vicenda di alcune operazioni sui derivati a Londra. Però Jamie Dimon è ancora lì, lo dico perché i politici li accusiamo, è giusto che paghino. Faccio notare che molti top manager, prima di andarsene, hai voglia, e quando se ne vanno ricoperti d'oro, perché le caste non sono solo quelle della politica, anzi le caste dei manager delle banche d'affari fanno sorridere gli stipendi della politica. E poi Goldman Sachs e Morgan Stanley si sono messi d'accordo per pagare al governo americano $560 milioni in merito alle indagini su come avevano collocato e venduto mutui e come avevano pignorato le case. C'è un'indagine in corso, hanno preferito patteggiare, evidentemente tutti questi punti di forza non li avevano. Dall'avidità, chiamiamola così, delle banche d'affari americane, che voglio dire, fanno il loro lavoro finché qualcuno non le regolamenta. Barack Obama nel primo mandato non ci è riuscito, speriamo ci riesca con il nuovo ministro al tesoro, segretario al tesoro, meno legato a Wall Street, a differenza di Timothy Geithner, di cui personalmente non sentiamo l'assenza. Detto ciò, andiamo all'Italia. Abbassare, potrebbe più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, drag e più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Evasori legalizzati, drag e più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Drag e più. Retromarcia, dietro front, la giunta di Leo Luca Orlando ha detto c'è stato un malinteso, gli assessori hanno rinunciato. Che cosa era successo? Insomma, era successo che era venuto fuori una mezza confusione, stavo per usare una parolaccia, sui telefonini degli assessori. Perché? Allora, il comune già aveva autorizzato l'acquisto per 10.000 euro per 10 telefonini, quindi 1.000 euro ognuno, mi sembra una buona cifra, di marca Apple, il telefono. Allora, che cosa è successo? No, perché il telefonino Galaxy S Advanced, che la Consip, che è la società ministeriale che fa gli acquisti di gruppo, che dovrebbe gestire gli appalti della pubblica amministrazione, era stato definito di scarsa qualità. Ora, io non sono un esperto, però il Galaxy S, il tecnico fa una faccia strana, mi confermate che è un buon telefonino, giusto? Però evidentemente all'assessore della giunta comunale non gli andava bene, no? Il Galaxy S Advance, e quindi il comune ha pubblicato una determina di spesa che autorizzava l'accantonamento, cioè mettere da parte 10.000 euro per acquistare 10 telefonini nuovi di marca Apple dietro front. E c'è stata un'offerta della team alla giunta, il comune ha spiegato: eravamo certi che gli iPhone fossero garantiti nell'ambito della convenzione Consip, cioè non avevamo capito che bisognava tirare fuori altri 10.000 euro, insomma un mezzo casino, fatemela dire la parola. A questo punto la giunta ha rinunciato, ma la retromarcia non è arrivata agli uffici, cioè loro avevano rinunciato ma non l'avevano detto o non l'avevano comunicato bene, quindi gli uffici andavano avanti con gli atti burocratici e hanno bandito la gara. A questo punto si è capito che loro non li volevano ma non avevano avvisato gli uffici, e quindi si terranno i Galaxy S Advanced. Ora, prossima volta che facciamo, dovremmo dire al nostro Enrico Pagliarini che la prossima volta che fa un programma di tecnologia deve chiamare uno degli assessori della giunta comunale di Palermo, perché sono espertissimi nel valutare l'operatività, la qualità del Galaxy S Advanced. Magari non tutti quanti a Las Vegas in questi giorni, no? C'è la fiera. Nel frattempo però a Palermo sempre chiude, dopo praticamente 6 mesi, il Museo del Risorgimento, aperto il 30 maggio 2010, aveva 4 dipendenti licenziati, tutta la biblioteca con 100.000 testi, di cui alcuni rari, sbarrata. Il centralino recita, gli interni sono al momento occupati. E il museo appunto ha fatto 2 anni in barba ai 300.000 euro spesi e ai 4 anni che ci è voluto per farlo nascere. Tra l'altro è parte di un'istituzione antichissima, la Società di Storia Patria. Nel bilancio del 2012 124.000 euro erogati non sono mai stati stanziati, non sono mai stati erogati, e quindi impossibile pagare i 4 dipendenti, la custode, 2 bibliotecari, l'amministrativo, e mantenere i locali, cioè le bollette, la pulizia. I soldi del biglietto non bastavano, 4 euro ridotti a 2 euro per le scolaresche. Però devo dire, gli assessori erano preoccupati dal Galaxy S Advanced. Beh, giusto, no? È così che formiamo le nuove generazioni. Ma sì, dai, sono un po' populista. L'avete scritto, ma non me ne frega nulla. Andiamo al Lazio. La Corte dei Conti ha bocciato la Regione Lazio. L'ultimo rapporto relativo all'esercizio finanziario 2010 con proiezione all'esercizio 2011 è una requisitoria, quella che fa la Corte dei Conti, perché dice sostanzialmente: cresce il disavanzo, una regione con un bilancio sempre più in rosso, il disavanzo passa da 9,9 miliardi e 770 milioni a 9 miliardi e 930 milioni, ma la cifra secondo la Corte dei Conti è molto più alta, perché il dato sullo stock di perizione dei residui passivi non è condivisibile. Vuol dire che se tu metti a bilancio che ti aspetti dei pagamenti da chi i pagamenti non te li darà mai, stai truccando i conti, traduco io. Ricalcolando, dice la Corte dei Conti, il buco della giunta Polverini è di 11 miliardi e 650 milioni di euro. Ma come cavolo si fa a aumentare di 2 miliardi in una regione da un anno all'altro il deficit? I soldi ai gruppi politici consiglieri sono stati occultati, dice la Corte dei Conti, nell'anno 2011, l'anno in cui aumentavano a dismisura i soldi ai gruppi del Consiglio, la voce dei finanziamenti politici veniva accorpata con altre 13, tra cui spese di rappresentanza, cancelleria, postali, telefoniche, in modo da farla scomparire. Tutte assieme, le spese per il telefono, per la cancelleria, assieme alle spese per i gruppi consiliari. E la Corte dei Conti dice è un'anomalia contabile. E poi più consulenze per tutti, risultano pagate nell'anno 2010 3 consulenze esterne per complessivi 120.000 euro fuori dall'agenzia Lazio Lavoro, preposta proprio al supporto tecnico consulenziale, cioè hai pagato chi deve darti assistenza tecnico consulenziale. Vabbè, senti, facciamo una cosa. E poi Carlo Maninconico, ex sottosegretario del governo Monti, riceve un incarico da 50.000 euro più IVA, eppure non è presente l'incarico nella nota dell'11 luglio 2012. L'elenco è lungo, si va da Ofelia Palombo, presa da Mario Bruzzese del PDL, a Cecilia Rosica, che collabora con Isabella Rauti, fino a Andrea Pizzicaroli, che lavora con Raffaele D'Ambrosio, e Caterina Leone per Claudio Bucci, rispettivamente PDL, UDC e Italia dei Valori, mentre l'assessore ai lavori pubblici Bruno Astorre era del PD. Mi sembra che abbiamo rispettato la par condicio. Un applauso, perché ce l'abbiamo fatta. Un applauso. Abbiamo rispettato la par condicio perché sono stati bravi tutti i partiti a darsi le stesse consulenze. Involontariamente l'abbiamo rispettata, non manca nessuno. Mamma mia, da 9 miliardi 930 milioni a 11 miliardi 650 milioni in un anno di buco, di buco. E poi non c'erano i soldi per il Santa Lucia, Polverini, per l'ospedale per i disabili, vero? Voliamo alto, meglio, voliamo a terra fra un po', perché ci occupiamo adesso di quello che sta capitando alla Boeing, che la borsa sta massacrando dopo che le due compagnie giapponesi hanno deciso, le principali, di tenere a terra tutti i Boeing 787 Dreamliner. Dreamliner Nightmare, potremmo dire. Gianni Dragoni, buonasera, adesso le 24 ore. Buonasera. Alzate la voce per favore, non sento Gianni Dragoni, e buonasera anche al direttore della rivista italiana Difesa, Pietro Battacchi, buonasera. Buonasera. Ciao, a tutti. Gianni, poi andiamo in pubblicità e poi ascolteremo l'analisi più dettagliata. Ma insomma, questa storia è pazzesca. Prima l'Airbus con l'A380 ci mette 2 anni a far uscire questo aereo a 2 piani perché ha sempre problemi di carattere sul circuito elettrico, e mo il Dreamliner, che se ne stava avvantaggiando, resta a terra. Ma cos'è che non sta funzionando? Il Dreamliner, aereo dei sogni, ha avuto una vita sfortunata. In ritardo di 3 anni ha cominciato a volare in servizio commerciale alla fine del 2011 con una di queste due compagnie giapponesi, la All Nippon. Quindi i problemi vengono da lontano. Finora quello che era stato ammesso è che nello sforzo di ridurre i costi, la Boeing, che ha utilizzato fibra di carbonio per costruire una fusoliera più leggera anziché il tradizionale alluminio, cioè c'è più fibra e meno alluminio, aveva appaltato gran parte della produzione a industrie straniere, in particolare in Giappone, ma è coinvolta anche l'italiana Alenia Finmeccanica per parti di fusoliera e lo stabilizzatore di coda. Quindi in questo processo di outsourcing esasperato, Boeing ha detto a un certo punto: forse abbiamo sbagliato, abbiamo esagerato nel dare lavoro, abbiamo perso il controllo industriale, ma questa potrebbe essere anche un po' una scusa, forse un pretesto. Certo è un aereo avveniristico, l'aereo di plastica, il più leggero, consuma meno, il 20% in meno di quelli tradizionali, certamente nello spingere le innovazioni possono emergere dei problemi, questa può sembrare la prima diagnosi da fare. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dicevamo di questa sfida nei cieli che sta diventando un incubo per la Boeing, soprattutto gli aerei a terra delle compagnie giapponesi. Gli ordinativi ci sono ancora commesse. Per la British Airways ne ha ordinati 24, la Korean Air ne aspetta 10. Pietro Battacchi, direttore della rivista Italiana Difesa. Gianni Dragoni diceva: la Boeing dà la colpa all'outsourcing, cioè si è rivolta ad altre società per... Sì. Ti ritrovi in questa analisi? Perché è un po' strano, cioè sia l'Airbus che la Boeing si ritrovano ad avere problemi sulla parte elettrica dei circuiti elettrici interni. Prego. Ma in realtà io sono favorevole, diciamo, sono d'accordo con la prima parte dell'analisi di Gianni Dragoni, ovvero laddove Gianni Dragoni dice che comunque si tratta di un progetto rivoluzionario, straordinariamente innovativo, che comunque cambia radicalmente il concetto del volo per quanto riguarda il trasporto civile, quindi si tratta di un progetto ad alto rischio, che probabilmente nel lungo periodo offrirà anche un alto ritorno, ad alto rischio, e quindi come tutti i progetti ad alto rischio, soprattutto inizialmente ci sono dei problemi, ci sono inevitabilmente delle problematiche da settare e da rimettere a regime. Ripeto, qui si tratta di un velivolo che cambia radicalmente proprio la filosofia progettuale dei velivoli come questi sono stati costruiti. Sì, no, però voglio dire, è uscito fumo dalla cabina, non è che non è una cosa da ridere, cioè, capisco tutto. Gli esperimenti li fa, ma non sulla pelle dei passeggeri giapponesi in questo caso, no? Assolutamente. Giustamente le compagnie hanno messo a terra gli aerei, credo che la... In questo momento Boeing si stia dando più che da fare per risolvere problemi, però secondo me, secondo la mia opinione, nel lungo periodo il concetto non cambia, ovvero una volta che saranno risolti i problemi, l'aereo comunque offrirà grandi vantaggi, insomma. Non mi pare che le stesse compagnie aeree abbiano iniziato a chiudere ordinativi, abbiamo iniziato a diminuire ordinativi, mi pare che gli ordini fermi siano oltre 800, insomma. Quindi nel complesso si tratta di problemi che per progetti così rivoluzionari, così rischiosi, sono abbastanza fisiologici, fermo restando che la sicurezza del volo viene prima di tutto, ovviamente. Però ripeto, se guardiamo cosa sta succedendo anche in campo militare a velivoli come l'F-35, anche in questo caso si tratta di un aereo rivoluzionario concepito in modo radicalmente diverso rispetto agli aerei tradizionali, inizialmente dei problemi per forza di cose ci sono. Sono problemi che ha avuto comunque anche l'A380, che sostanzialmente è un aereo che rientra nella linea tradizionale di sviluppo, insomma. Per cui figuriamoci il 787, che è un velivolo costruito in misto tra alluminio e soprattutto fibra di carbonio, compositi, materiali altamente innovativi. Ripeto, secondo me sono cose che si possono risolvere. Sì, si possono risolvere, però prima li tieni a terra, li risolvi, poi li fai decollare. Non è che vorremmo essere noi le cavie dei problemi della Boeing. Gianni Dragoni, Pietro Battacchi diceva: ma ci può stare che ci sia qualche intoppo all'inizio? È successo anche l'Airbus A380, quello a due piani, non riuscivano a vararlo, diciamo, per problemi interni. Una volta però è sempre successo. A me fa un po' specie che due colossi che si stanno facendo una guerra spietata come Airbus e Boeing, tutti e due caschino metaforicamente, visto che parliamo di aerei, caschino sugli stessi problemi. In molti casi precedenti, io ricordo, questi sono i due ultimi aerei, le ultime due meraviglie dell'aviazione civile, gli americani col 787, gli europei con l'Airbus 380. L'aereo precedente che è stato creato, il Boeing 777, e che è anche nella flotta dell'Alitalia, per esempio, non ricordo che abbia avuto problemi simili. Peraltro questi aerei hanno accumulato forti ritardi nella fase di produzione, 3 anni il 787, 2 anni l'Airbus 380, quindi siamo di fronte, credo, a un fenomeno nuovo, più grave, anche se il ritardo o la messa a punto spesso è necessaria in questo settore. Probabile che la sfida accesa sulla competizione, l'aeroavveniristico, ma questi sono problemi non dovuti alla fusoliera o al materiale, bensì all'impianto elettrico. Come hai ricordato Sebastiano, c'è stato fumo, c'è stato un incendio in una batteria di accensione dei motori ausiliari, quindi casi che possono creare gravi problemi. Può darsi che la soluzione sia alla portata, ma dopo un anno e mezzo che questi aerei volano e già avevano accumulato 3 anni di ritardo, evidentemente ci sono ancora dei seri interrogativi sull'affidabilità e la sicurezza. Questo non è normale. Una parziale buona notizia può essere dire che, da quanto mi risulta, non volano in Italia questi aerei, perché ANA vola da Francoforte al Giappone. E quindi, però, insomma, questo è solo. Sì, diciamo, però ci sono tanti italiani che si imbarcano a Francoforte per andare in Giappone. Adesso, cioè, attenzione, non è che un iniziare a dire che modello è, salgo o non salgo. No, tu hai detto una cosa molto giusta, Gianni. Secondo me, quando fu lanciato il 777 Boeing, che prese il posto del Jumbo, sostanzialmente del 747 in molti casi, non si segnalò alcun problema. Forse hanno spinto un po' troppo sulla ricerca avanguardistica, forse hanno messo un po' troppi appalti all'esterno, in outsourcing, un po' di fretta, non sappiamo. Io però un giudizio lo devo dare, mi sembra veramente uno smacco sia per un colosso come Boeing e anche per l'Airbus. Ritardi di 2 anni per l'Airbus, di 3 anni per la Boeing, e poi quando gli aerei partono nemmeno tutto va bene. Grazie al direttore della rivista Italiana Difesa, Pietro Battacchi, grazie anche a Gianni Dragoni. Gianni, visto che sei con noi, novità sull'Alitalia dopo il lock-up scaduto il 12 gennaio? Vincolo il lock-up, e mentre ci siamo agitati tutti molto prima, da quando è scaduto, ci siamo tranquillizzati, perché per il momento non sta succedendo nulla. Niente. Ma certamente nelle intenzioni dei soci dell'Alitalia di vendere, e di qualche compagnia, in particolare Air France, di avvicinarsi, stanno manovrando sotto traccia, però al momento sembra non accada nulla. E visto che ti sfrutto al completo, adesso parliamo di borsa. Il caso di oggi è Meridiana, perché il titolo sospeso per eccesso di rialzo è arrivato a guadagnare, adesso vediamo il prezzo finale, più 47% oggi Meridiana, 86 centesimi di euro per azione, dopo che l'Aga Khan ha licenziato l'amministratore delegato Giuseppe Gentile e lo ha sostituito con Roberto Scaramella, e ha concentrato il capitale nelle sue mani, una ricapitalizzazione ipotizzata in circa 100 milioni di euro, e ha liquidato l'ex azionista di minoranza Gentile. Ora la compagnia è tutta in mano all'Aga Khan. Perché questo entusiasmo al di là dell'aumento di capitale? Potrebbe esserci un'ipotesi di che ci sia quindi un'offerta d'acquisto totalitario, un'OPA a un prezzo più alto. Lo dico un po' con un punto interrogativo, perché comunque una compagnia che perde in borsa da 5-6 anni, che ha un bilancio forte passivo, la capitalizzazione in borsa ieri era di 64 milioni, quindi un rialzo del 40% vuol dire come aggiungere 25 milioni al valore, quindi piccole cifre nel complesso, ma importanti per chi ha le azioni. Forse qualcuno anche dalle sciagure riesce a trarre vantaggio, come è stato con alcuni investitori sulla Grecia. Cioè, me la spieghi questa? Voglio dire, no, intendo che c'è stato recentemente un investitore, un fondo americano che è emerso, che ha investito nei bond greci quando sembrava ci fosse il fallimento, il default, li ha comprati quindi a poco, e ha guadagnato 500 miliardi. E questo riguarda i bond greci, le obbligazioni greche, e su Meridiana. In questo caso la sciagura riguarda il crollo in borsa, il deprezzamento di Meridiana e Italy, che ha conti in profondo rosso. E dici qualcuno poteva saperlo e oggi ci ha guadagnato parecchio? Potrebbe, lo dico col punto interrogativo, ma è probabile che alla fine scopriremo qualche. E chi è che potrebbe saperlo? L'Aga Khan stesso? Gentile? Se Gentile è stato liquidato, forse no. Probabilmente ci sono dei analisti, diciamo anche mondo finanziario, qualche banca, qualche potenziale consulente che può aver avuto creato una fuga di notizie. Certo, è un comportamento irrazionale in apparenza. Mi sa che tu hai ben presente chi potrebbe essere, ma non ce lo puoi dire perché, insomma, temi la prova, è meglio non dirlo. Di nuovo in diretta e dicevamo oggi il caso di borsa è Meridiana, Fly, più 47% congelata, sospesa a rialzo in mattinata alle 11:30, abbiamo spiegato anche i motivi, quindi il fatto che si scommetta o in un'OPA, cioè che venga sostanzialmente raccolte tutte le azioni presenti sul mercato e che comunque la Gacan metterà addirittura, c'è chi dice 100 milioni di euro dentro Meridiana, che ha grossi problemi. Tra l'altro l'ENAC ha sto chiesto dai Codacons che l'ENAC, cioè che l'autorità sul traffico aereo, sospende la vendita dei biglietti aerei di Meridiana Fly perché la compagnia era in crisi di liquidità, ha subito il sequestro di 5 velivoli e la sospensione della licenza di volo sostituita con un permesso temporaneo. Devo dire che Meridiana per alcuni molti aspetti lascia molto a desiderare, a partire dal tipo di velivoli utilizzati. Detto ciò, il resto della borsa. Diasori in più 4%, Tod's più 2,70%, Buzzi Unice in più 1,90% come Ferragamo, l'1,60% lo guadagna Tenaris, l'1% Terna, ma l'1% rialza anche di Atlantia. Fronte opposto, Mediaset meno 4,40%, e poi tutte le banche, lo spread oggi era 265-262. Comunque Mediobanca meno 3,22, Banco Popolare meno 2,90, Ubibanca meno 2,40, Monte dei Paschi meno 2,20, Intesa meno 2%, come Popolare di Milano, Unicredit meno 1,70, Fiat poi perde il 2% anch'essa. Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Mediaset e le banche. Sì, sono scattate le prese di beneficio dopo la corsa degli ultimi giorni o delle ultime settimane, quindi vanno a colpire soprattutto i titoli che hanno perso di più, in primis le banche che soprattutto hanno guadagnato di più. Sì, che hanno guadagnato di più, oggi conseguentemente hanno perso di più proprio perché si porta a casa il guadagno. Stesso discorso per Mediaset, del resto, nonostante il calo di oggi del 4,4%, il calo anche di ieri, le azioni di Mediaset dai minimi di novembre comunque continuano a vantare un progresso attorno al 50%, minimi toccati, ricordiamo, dopo che era stata resa nota la prima trimestrale in rosso dell'azienda. Diciotto e sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e continuiamo e concludiamo l'approfondimento di borsa con Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Dicevamo, di al di là di Mediaset e delle banche, il lusso oggi bene, sia Tod's più 2,70 che Ferragamo più 1,90%, e poi Telecom meno mossa in realtà nel finale più 0,20%, ma domani c'è il consiglio di amministrazione. Esatto, per quanto riguarda il lusso, soprattutto Tod's ha conquistato la quota dei 100 euro, questo perché ormai gli analisti sono tutti abbastanza allineati sul fatto che anche nel 2013 il settore del lusso continuerà a correre. Secondo ad esempio Credit Suisse, il fatturato dell'intero comparto salirà almeno del 9% in linea con gli anni passati, e ovviamente poi ci saranno società che andranno meglio. Comunque appunto le banche d'affari sono positive sulle aziende italiane, oggi si è messa in evidenza Tod's perché ieri era rimasta un po' più al palo rispetto a Ferragamo, anche Ferragamo comunque si sta dirigendo verso nuovi massimi conquistando quota 20 euro. Per quanto riguarda Telecom c'è grande attesa per il consiglio di amministrazione di domani, consiglio che dovrebbe esaminare dei dossier caldi, in primis quello sulla cessione di Telecom Italia Media, che tuttavia almeno secondo le indiscrezioni sembra sempre più in salita. Vedremo domani che cosa accadrà. E questo su Telecom Italia, migliori e peggiori in assoluto? Beh, Meridiana ovviamente è il migliore, più 47%, CDC Point più 23%, Banca Popolare di Spoleto più 18,5%, Cape Listed più 21,50%, mentre tra i peggiori ITWay meno 7,13%, Mediaset meno 4,42%. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore. Non ce la facciamo a occuparci oggi del nostro export, ne ha parlato il premier Mario Monti, l'intervista con il presidente dell'ICE, ve la facciamo ascoltare e la manderemo domani. Invece ricordo però i dati, perché la notizia è più che buona: più 3,6% l'export italiano a novembre, calano moltissimo le importazioni, Molto bene l'export italiano in Russia, più 13%, in Turchia più 15%, nei paesi produttori di petrolio OPEC più 33%, in America più 16%, in Cina più 11%, in Giappone più 16%, non bene in India, meno 11%, e non bene in tutti i paesi euro. La Germania, a conferma che ha frenato negli ultimi mesi del 2012, meno 3,8% il nostro export rispetto a un anno prima. E la Francia fermo, più 0,5, Spagna meno 7,5, la Gran Bretagna, che non è nell'euro, più 3,9%. Il saldo della bilancia commerciale, quindi la differenza tra esportazioni e importazioni, è positivo ed è il più alto dal 2002, quasi 9 miliardi, grazie alla forza e alla capacità delle nostre imprese, quelle grandi ma anche quelle medie e tutte quelle piccole che sono in filiera, che forniscono, sono subfornitori di medie o grandi imprese presenti su quei mercati. Brave a tutte, tant'è che il ministro uscente Corrado Passera dice il saldo positivo a fine del 2012 sarà di 10 miliardi di euro. Faccio notare che il 4% di rialzo delle esportazioni che segneremo come dato complessivo è identico all'aumento delle esportazioni che ha avuto la Germania, a dimostrazione che i nostri imprenditori, lo dicevamo anche prima, nonostante lavorino con un terreno di gioco molto più sfavorevole rispetto ai tedeschi, per tantissimi motivi, incluso un paese che li aiuta meno, sono bravi quanto i tedeschi. Volete sapere delle quote latte? È vicenda di cronaca, la perquisizione delle sede della Lega a Milano e a Torino, sentito anche Renzo Bossi, per quello che riguarda la vicenda delle quote latte. Roberto Maroni, Umberto Bossi, Roberto Cotto e Roberto Calderoli invece hanno opposto l'immunità parlamentare, interrogate anche le segretarie della Lega di Torino e a Milano dai PM, e il segretario Maroni ha detto la Lega non c'entra, il caso è chiuso, è fango perché siamo avanti nei sondaggi. Però la vicenda delle quote latte non l'abbiamo seguita per molti molti mesi e anni, perché è una vicenda indegna, una storia infinita che costa tantissimo al nostro paese, fino ad ora 4 miliardi di euro di multe per difendere 660 splafonatori irriducibili su oltre 31.000 aziende in regola. Allora, non è un mistero che questi fossero vicini alla Lega, in un caso abbiamo avuto anche uno di questi splafonatori, era eletto, se non ricordo male, al Senato. Però da qui a dire che c'è un ruolo penalmente rilevante della Lega ce ne passa, infatti la vicenda è della magistratura, per cui faccio solo notare che lo scorso luglio è arrivata una proroga dei termini per gli irriducibili, nonostante l'opinione contraria luglio del 2011, scusatemi, nonostante l'opinione contraria dell'allora ministro dell'agricoltura Galan. Fu dato più tempo per pagare, dal 30 giugno al 31 dicembre 2011. Adesso dalle quote latte vorrei andare invece a un altro tema, ed è il tema del fisco, perché insomma, è previsto in serata un incontro tra il presidente del consiglio uscente Mario Monti e il direttore dell'agenzia delle entrate Attilio Befera. Il tema è il redditometro. Tra l'altro domani e anche domani su Sole 24 Ore verranno approfondite tutte le modalità di archiviazione e il tipo di documenti che uno deve tenere da parte per il nuovo redditometro, che è il nuovo modo per determinare il reddito dei contribuenti e identificare delle anomalie. Ne ha parlato a lungo Salvadanaio, quindi non vi torno. Prende in considerazione 55 tipologie familiari, 11 nuclei per 5 diverse aree geografiche, 100 voci di spesa, dall'abbigliamento al tempo libero, consumi energetici, telefoni, abitazione, e dovrebbe prendere di mira scostamenti superiori al 20% tra entrate ufficiali e quelle stimate. E poi il contribuente sarà lui a dover dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. E fin qua tutto bene, si fa per dire, speriamo che lo strumento serva veramente alla lotta all'evasione, non diventi invece uno strumento vessatorio o anche uno, peggio ancora, uno strumento che porti a ridurre i consumi. Ma se servirà alla lotta all'evasione, noi siamo più che favorevoli. La cosa interessante però è che questo redditometro dovrebbe andare all'ospedale degli innocenti di Firenze, dove venivano abbandonati una volta i bambini, perché è orfano, nessuno ne ha la responsabilità. Adesso io vi faccio sentire, è una cosa pazzesca questa, l'abbiamo deciso noi praticamente. Allora, adesso io monterei nell'ordine le dichiarazioni di Mario Monti sul redditometro, quelle di Silvio Berlusconi sul redditometro, quelle di Giulio Tremonti, allora ministro dell'economia, sul redditometro, e quelle dell'unico che obiettivamente non c'entra e che è il segretario del PD, Bersani. Lo dico perché il redditometro fu deciso nel governo Berlusconi e poi reso operativo con i decreti dal governo Monti. Però sentite questa lista di dichiarazioni da Monti, Berlusconi, Tremonti e poi Bersani. Non credo che abbia un ruolo così importante, ma stiamo parlando di un'altra misura doverosa che è stata introdotta da chi ci ha preceduto e che ha punteggiato come altrettante bombe ad orologeria la strada di questo governo. Credo, quindi fosse stato per lei non avrebbe messo il redditometro? Fosse stato per me non credo che l'avrei messo. Può sempre toglierlo, Cioè. È una cosa da valutare seriamente. Comunque, sa, questo le dà l'idea di come abbiamo avuto un sentiero obbligato. Si sottopongono queste famiglie ad un esame accurato con, per esempio, il redditometro. Non so chi di voi ha già potuto vedere le 80 voci del redditometro, che è qualcosa da fare paura, una cosa da Stato di polizia tributaria. Se entra in vigore quel decreto, da marzo in poi si blocca l'Italia. La incidenza sui consumi e quindi sull'economia italiana è devastante. Stiamo parlando di un decreto che è stato fatto il giorno della vigilia di Natale, il 24 di dicembre del 2011 e 12, che è entrato in vigore sulla Gazzetta il 5 di gennaio di quest'anno, 2013. È un decreto nuovo che non colma una lacuna, perché era già ed è ancora in vigore il vecchio redditometro, che non va incontro a una scadenza, perché non c'erano scadenze. È una scelta politica fatta dal governo Monti. No, io non penso affatto che sia stata la polizia fiscale, tuttavia, francamente, io credo di più al tema dell'incrocio delle banche dati che ci sono. Credo che di più alla circolazione dei contanti, credo di più questa lotta all'elusione quando diventa evasione rispetto a questi meccanismi. Dopodiché non arrivo a dire che sono da Stato in polizia. Ma... Insomma, nessuno lo voleva. Monti non lo voleva, l'abbiamo ereditato, personalmente non l'avrei fatto. Berlusconi lo definisce strumento dallo Stato di polizia, ma il governo c'era lui. Tremonti dice bloccherà l'Italia, ma era ministro dell'economia. Bersani dice vabbè, non siamo allo stato di polizia, però avremmo preferito l'incrocio delle banche dati. Noi forse siamo in grado di scoprire, sapere chi l'ha voluto questo redditometro. È Guido Gentili, buonasera, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Guido. Ciao, buonasera. Sei tu che l'hai voluto? Sì, sono io, forse anche te, siamo stati noi. E l'abbiamo imposto a Berlusconi, Monti. E l'abbiamo imposto a Berlusconi e Monti. Sì, insomma, purtroppo è una storia tipica italiana nel momento in cui c'è una campagna elettorale che per gran parte si gioca sul terreno fiscale. E il redditometro è stato operativamente introdotto il 24 di dicembre con un decreto del Ministero dell'Economia del governo Monti ed è comparso sulla Gazzetta Ufficiale il 4 di gennaio, ma è figlio c'è stata tra l'altro una conferenza stampa il 20 di novembre scorso del direttore delle entrate Befera, che ha spiegato in lungo e largo di che cosa si trattava, e è figlio di un decreto del 2010, comparso sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, del governo Berlusconi, che su proposta di Tremonti ha fatto questo decreto che a sua volta modifica una legge del 73, dove sostanzialmente si parlava di questi già allora di questi temi. Quindi basta andarsi a leggere l'articolo 22 del decreto 78 del 2010 e si capisce da dove nasce il redditometro. Io non so, ma adesso io capisco che gli italiani abbiano memoria corta, ma cascare dal pero sempre, a parte il fatto che ci sono molti ascoltatori su Facebook e al 349-238-6666 che si attribuiscono la responsabilità. Dice uno, è figlio mio, è stato un momento di debolezza con Attilio Befra, mi ha preso con la forza, ridendo. Ma insomma, cioè, qui è pazzesco, c'è un governo Berlusconi che con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non è che una cosa segreta, massonica, sì. Dice sì. Partirà questo strumento. E poi Monti crede mancava il decreto attuativo. Monti vale i decreti attuativi. Esatto. Quindi voglio dire, è figlio di tutti e due, ha un papà e una mamma. Diciamo, se mi fate fare una battuta. È figlio di una coppia gay, nel senso, e la mamma che poi ha partorito è Monti. Cioè, ha due papà, come la legge, diciamo, in Francia. Non so più come. Perché è una cosa pazzesca. Uno dovrebbe dire: l'abbiamo fatto, ci siamo sbagliati. No, addirittura Tremonti dice: si bloccherà l'Italia, ma l'hai firmato tu, era tua la proposta del redditometro. In realtà, qui più che un orfanello, parliamo di un orfanotrofio, Guido. È giallo sul redditometro, è giallo anche sull'IMU, ma è giallo anche sulla TARES, sulla tassa per i rifiuti. Sentite che è capitato oggi. La Commissione Ambiente del Senato ha approvato un emendamento del relatore Antonio D'Alì, che anche lui in campagna elettorale fa slittare la tassa sui rifiuti dal 1 gennaio al 1 luglio 2013. E vabbè, il decreto sui rifiuti poi sarà votato dall'Aula in giornata. La Commissione Bilancio, questo alle 11, due ore e mezza dopo, la Commissione Bilancio del Senato ha bocciato lo slittamento deciso dalla Commissione Ambiente del Senato, ha dato parere contrario all'emendamento di D'Alì perché ha detto non c'è copertura finanziaria per poter rinviare la tassa. Allora, siccome io mi fido anche della Commissione Bilancio del Senato, la mossa di D'Alì in Commissione Ambiente era chiaramente una mossa, secondo me viene sospetto elettorale, ma chiedo conferma al padre del redditometro dell'IMU, ossia Guido Gentili. Sa di campagna o no? Eh beh sì, siamo, come dicevo prima, siamo in campagna elettorale, il fisco è un tema molto sensibile e quindi ne vedremo delle belle da qui ancora fine al 24 di febbraio su questo terreno. Su questo non c'è dubbio, è un cattivo costume quello in cui le forze politiche da un lato disconoscono i provvedimenti che sono stati già firmati e sottoscritti in termini di legge e dall'altro promettono cose che poi ovviamente cozzano con la realtà, e questo purtroppo dobbiamo abituarci ed è un vizio antico. Sì, dico, eravamo abituati alle case pagate all'insaputa, ma i provvedimenti, scrive un ascoltatore, fatti all'insaputa di chi allora era presente, leggi firmate pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a sua insaputa, è una bellissima questo, cioè, sì, questo è ovviamente un precedente ho non firmato da poco. A mia insaputa, potremmo sì. Dire vabbè, potremmo usarla anche noi nel futuro. Tra l'altro la Corte dei Conti è appena intervenuta sul redditometro qualche istante fa, ha detto occorre evitare un uso disinvolto delle informazioni non verificate, ha detto il presidente Luigi Giampaolino, massima attenzione e massima cautela nell'uso dei dati. Guido, allarghiamo il tema perché, per carità di patria, diciamo, per volare almeno noi alti, e veniamo a quello che poi saranno le prossime settimane anche per Focus Economia, e cioè i temi di carattere economico-finanziario. Mi sembra che al di là di questi improvvisi smemorati di Collegno, intanto vedo che il decreto sui rifiuti, eccola qua l'agenzia, è passato e si pagherà la prima rata a luglio e non ad aprile, quindi il Senato ha approvato a larga maggioranza il decreto sui rifiuti che consente di far pagare la prima rata della TARES a luglio e non ad aprile. Il decreto riguarda anche la proroga per il commissario che si occupa del naufragio della Concordia, adesso passa alla Camera e quindi a questo punto va a luglio. Altra modifica, vabbè, dicevo, mi sembra che a parte così problemi di memoria i grossi temi di politica economica non stiano emergendo, cioè tu, sì, qualche scaramuccia, insomma, cosa fare con l'Europa il giorno dopo le elezioni, esatto. No, andare a chiedere alla Germania, lo dico molto espressamente, basta, anche tu ti sei fermata economicamente per colpa di troppo rigore, troppe tasse, troppi tagli, tutti in una volta, senza politiche per lo sviluppo. Andare a chiedere ai partner europei cosa si vuole fare, cioè tutti questi temi scompaiono perché si parla solo di redditometro e di IMU. Sì, esatto, si parla in questo momento, non si parla di altro che di sostanzialmente di tasse, è giusto per certi aspetti perché sappiamo che la pressione fiscale sui cittadini e le imprese è insostenibile a livelli altissimi. Ma anche l'occupazione in questo caso. Esatto, però c'è un problema, ad esempio sui temi del lavoro, dell'occupazione, della disoccupazione si sente parlare in modo molto marginale, questo è un errore, così come un errore non parlare di quello che è la nostra presenza in Europa, il nostro raccordo con l'Europa, il tema del fiscal compact che ovviamente ci impegnerà molto nei prossimi anni in termini di politica economica, e di questo al momento non si parla. Vorrei ricordare, non vorrei che finisse anche su questi temi come nel caso del fisco, cioè per esempio il fiscal compact che è stato approvato a larghissima maggioranza dal Parlamento italiano, poi forse arriverà il momento in cui qualcuno comincerà a dire beh ma no, forse però è meglio ripensarci, e forse è meglio ritrattare, meglio rivedere in Europa tutto questo, e quindi ricominciamo da capo anche su questo terreno. Sì, il fiscal compact è quell'accordo che abbiamo firmato assieme agli altri paesi europei che all'Italia costerà 20 miliardi di riduzione del debito all'anno da qua al 2020, lo almeno, dico, sì, certo, almeno. Certo. Allora, siccome tagliare 20 miliardi vuol dire avere pochissime risorse poi per fare qualunque cosa, io non dico che vada rivisto, ma allora, l'ha firmato il governo Berlusconi, il governo Monti era d'accordo, il PD, se non ricordo male, lo appoggiò come linea, anche perché appoggiò il governo Monti, e qui vorrei capire, andremo a rinegoziare questi tagli alla spesa pubblica, chiederemo più tempo visto che l'economia si è fermata anche in Germania, non so, questi temi mi piacerebbe affrontare, non chi ha firmato il redditometro visto che c'è tutto scritto in gazzetta ufficiale. E poi Guido, faccio notare che tutti i sondaggi ci dicono che più che il fisco gli italiani e gli elettori sono interessati al tema dell'occupazione, con la disoccupazione giovanile al 34%, lì il deserto dei tartari, il silenzio. Esatto. No, ma perché? Non ci sono idee? No, qualche idea per la verità c'è, però diciamo al momento è rimasta totalmente marginalizzata rispetto al tema del fisco, che evidentemente dal punto di vista della classe politica è una materia su cui si può scommettere più facilmente a breve, diciamo, per raccogliere consensi, e quindi mentre invece il discorso sull'occupazione e disoccupazione, essendo un tema strutturale, non porta voti, diciamo, nell'immediato. E poi toccherebbe anche studiare, se posso permettermi una battuta, cioè avere delle proposte concrete, non leverò questo, certo. No? Certo, è più facile dire ovviamente sì o disconoscere la paternità del redditometro che invece impegnarsi sui temi della disoccupazione giovanile. Tutti bravi in orale, come diceva il compianto Giovanni Svetic. Vabbè, grazie all'autore, al colpevole del redditometro dell'IMU, l'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Grazie questo a voi, punto... anche complice. Mamma mia. Vabbè, buona serata comunque da Sebastiano Barisoni. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.